Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il cielo si apre, il sole illumina la città. 29 giorni di strada. Sono i giorni che rendono l'uomo un pellegrino. Ciao, io sono Bruno, ho 37 anni, abito a Nembro in provincia di Bergamo, lavoro nell'ambito della grande distribuzione commerciale e ho tanti interessi di ogni tipo, dalla bici, montagna, borsa, tennis, un po' di tutto. Oggi cominciamo subito con un messaggio fuori contesto, è un messaggio che è arrivato ancora prima che andassimo in onda, che dice così: sono al Vinitaly e qui non sanno dove siete, ma si può. Che c'è anche un po' il tono, ma si può, ragazzi. Ma non ho parole, sono al Vinitaly e non sanno dove siete. Te lo dico io dove siamo, se ci stai ascoltando. Siamo al padiglione numero 12, Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo. C'è un grande via vai, c'è gente che arriva da ogni parte del mondo. Ho incontrato un australiano, ho incontrato un canadese e un sardo, per dire, da tutte le parti del mondo, qui al Vinitaly. Buongiorno a tutti, sono le 16 e 9 minuti, quasi 10 secondo l'orologio di Davide Ciocia, che come ormai avete imparato a conoscere, ci dice che siamo in esterna. Davide Ciocia è qui, sempre silenzioso, al posto di Margherita Ina, che è a Milano, c'è Laura Vanossi, che ha curato e gestito Nicoletta Carbone, che è là, non vuole entrare. Nicoletta, quando vuoi, puoi essere dei nostri. E Paolino Corleoni, praticamente tutta la squadra qui a Milano, chi c'è? C'è Pietro La Corte, a Milano, chiaramente, con i suoi splendidi di riccioli. Oggi noi parliamo di una cosa che ci suggerisce Bruno, come sempre noi facciamo, noi raccontiamo una storia e la storia che ci suggerisce Bruno è quella di un cammino a piedi. Visto che però siamo a Vinitaly e qui c'è gente che arriva veramente da tutto il mondo, tra l'altro c'è un posto, Nicoletta, vai a vedere anche questo posto qui di fronte a noi, non è uno stand fighettino, ci sono questi produttori che praticamente sono lì e se tu entri è tipo un girone infernale, puoi bere dall'inizio fino alla fine. E sapete da cosa si vede che un produttore è un po' meno fighettino degli altri? Che è abbronzato in faccia ma non ha il segno della maschera da sci a metà aprile. 349-238-6666. Oggi parliamo del viaggio più lungo che avete fatto per assaggiare un vino, qualunque vino fosse e di qualunque vino si trattasse. 349-238-6666 è il numero per mandare solo sms, non per chiamare, eh? O altrimenti c'è il nostro profilo Facebook, è Voi Siete Qui Radio 24, oppure Voi Siete Qui R24, è il nostro profilo Twitter. È già arrivato un messaggio di Maria Donata che dice: sono andata fino alla Morra d'Alba, al ristorante Belvedere, allora ancora gestito dal grande Bobbio, e qui si fanno nomi, cognomi, luoghi. Erano le ultime 3 bottiglie di un Barolo da favola. Se volete sapere qualcosa sul vino, io sono la persona giusta, essendo a Stemmio, potete venire qui al padiglione numero 12. Mi viene in mente reparto, perché ho detto reparto l'altro giorno, però sembra di stare all'ospedale. Quindi al padiglione 12, Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo, c'è lo stand di Radio 24. Quello che sentite in sottofondo è il casino di fuori del Vinitaly, perché ho imparato da Davide Ciocia o da Paolino Corleoni che non si può chiudere gli stand, non si possono più chiudere sopra, per misure di sicurezza. Quindi siamo praticamente all'aperto. Saluto quelli che guardano da fuori. Noi cominciamo a raccontare una storia, è la storia di Bruno, e parla di un lungo cammino. Ho pedalato da solo da Londra a Piacenza e il giorno dopo sono partito a piedi verso Roma. Era l'estate del 2004, dovevo scrivere la mia tesi di laurea sulla Via Francigena. Sono partito come un viaggiatore e sono tornato come un pellegrino. Il tempo scorre tra i piedi e l'asfalto, lento e silenzioso, protagonista di un'avventura infinita. Il tempo è attraversato dall'uomo che prima di entrare in immensi paesaggi, città o relazioni deve scontrarsi con il tempo. Viaggiare con le proprie forze per centinaia di chilometri significa essere ospiti del tempo e della storia. Ho scoperto il bello dell'essere pellegrino nel momento in cui ho capito che essere pellegrino è entrare nel significato delle cose, incontrare le persone con uno sguardo un po' più profondo e riuscire a leggere l'esperienza e leggere il vissuto come esperienza, quindi un'esperienza che poi ci si porta dentro per tutta la vita, che va oltre il viaggio stesso. La notte prima di partire un soffio di agitazione percuote il corpo, sono brividi e la mente non mi lascia dormire. Londra, 28 luglio 2004, primo giorno di strada. Sul treno verso Liverpool Station trovo lo spazio necessario per rimontare la bicicletta. Svita e poi solleva il manubrio, riavvita, monta la ruota posteriore e poi quella anteriore, stringi il mozzo, infila la sella, poi le borse. La gente sorride, una ragazza nera mangia patatine. Dopo aver trovato posto alla grande scatola in stazione, problema non indifferente, sono pronto. Sì, pronto per tornare a casa. Perché montato in sella, il primo pensiero è stato: ora vediamo di tornare a casa. Sì, perché sono sincero, a Londra l'idea di Roma era molto vaga. Il pensiero era trovare la via per uscire dalla città e ritornare a casa, in Italia. Il viaggio è durato tutto un mese. Ho passato 12 giorni in bici e 18 a piedi. Si è scoperto pian pianino quello che cambiava in me e quello che cambiava nel mio modo di pensare. Perché in un viaggio comunque lungo sia tempo, sia molto tempo per pensare, ma anche molto tempo per incontrare persone, incontrare gente e lasciarsi scoprire un po' da loro. Un mese dopo, Roma, 25 agosto 2004, 29esimo giorno di strada. Si è partiti prima dell'alba, alle indicazioni del prete di Campagnano, a 37 chilometri dalla capitale, al primo bivio perdono tutta la chiarezza. È ancora buio. Camminare e poi tornare sui propri passi è sconfortante. I passi inutili sono più pesanti. Si trascinano lenti sul terriccio del selciato. Lo sguardo cade sulle impronte ancora nitide. Da qualche giorno cammino con Diego. Il cielo schiarisce e qualcuno esce di casa. Noi si domanda e si prosegue. A pochi chilometri da Roma c'è una valletta dove pascolano liberi bovi e cavalli. L'erba è verde in una mattina umida. Il bosco, i nostri passi. Superiamo il grande raccordo anulare, segno concreto dell'essere nell'urbe. Tentano di cadere poche gocce d'acqua, le prime dopo un paio d'ore di pioggia tra Piacenza e Fidenza, ma non rompono il passo. Il cappello rimane nello zaino. Si raggiunge di nuovo la Cassia, Isola Farnese, la Storta, la Giustiniana, poi la Trionfale. Sono i nomi letti per giorni sull'ultimo tratto di cartina e ora si concretizzano tra i piedi e l'asfalto. Roma, più che essere grande, è diffusa. È sparpagliata sui colli che spariscono sotto un manto di case e ruderi risparmiato dalle ultime guerre. Alberi e stazioni. La stanchezza ci porta a sbagliare ancora. Poi Monte Mario, i pellegrini del X secolo lo chiamavano Mons Gaudi, Monte della Gioia, e un motivo ci sarà. Il cielo si apre, il sole illumina la città. 29 giorni di strada. Sono i giorni di strada che rendono l'uomo pellegrino. In questi giorni, tra gli altri, ho camminato il 13 agosto lungo 15 chilometri di battigia tra Massa e Pietrasanta, interrogando con il mio camminare centinaia e centinaia di uomini, donne e bambine. I loro sguardi, ne sono certo, erano più eloquenti di tante parole. Ho dormito sotto un tavolo da ping pong nelle stanze di un palazzo del Settecento. Ho disceso a San Bernardo con un freno attaccato con lo scotch al telaio della bici. Avevo anche sperato che mi venisse rubata la bicicletta perché volevo una scusa per tornare a casa. Poi ho camminato. Tanto. Essere pellegrino significa essere straniero. Significa affidarsi alla strada che si percorre e ai suoi volti. Arrivato alla meta, il pellegrino non ha più ragione d'essere se non nel raccontare gli incontri e le emozioni. Di fronte alla tomba di Pietro ci si inginocchia, come in Santa Maria Borgo. Poi ci si alza e si torna a casa. Well, you said you didn't care about distance. And it's crazy to think how mad I made you. And it is weird to think how bad now I miss you. Like when you stood there waiting for me in the early morning sun. And I said, well, I'd rather walk than run. Alla fine di novembre del 1974 mi telefonò un amico da Parigi. Mi disse che Lotte Eisner era gravemente malata ed era probabile che morisse. Io dissi no, non può essere, non in questo momento. Il cinema tedesco proprio ora non può fare a meno di lei. Presi una giacca, una bussola, una sacca con dentro lo stretto necessario. I miei stivali erano così nuovi e solidi che si poteva contare su di loro. Presi la strada più diretta per Parigi, nell'assoluta fiducia che lei sarebbe rimasta in vita se io fossi arrivato a piedi. Chi scrive queste parole è Werner Herzog, il regista tedesco. In quell'inverno di 40 anni fa, lui compie un viaggio superstizioso e irragionevole. Cammina da Monaco di Baviera a Bari, a Parigi, convinto che questa impresa salverà la vita dell'amica. È il 23 novembre quando Herzog esce di casa e si mette a camminare. Dello stretto necessario di cui parla fanno parte anche un quaderno e una penna per scrivere gli appunti di viaggio. Nel suo diario annota quello che vede e quello che fa. È il viaggio stesso a suggerirglielo. E così un gesto elementare come camminare diventa uno strumento di conoscenza profondissima, diventa scoperta di luoghi della provincia tedesca e francese, scoperta degli agenti atmosferici, delle bufere, della neve, della pioggia, la scoperta del passare del tempo, della luce e del buio, del cercare un tetto per proteggersi e un letto per riprendere le forze, la scoperta del bisogno di cibo, di acqua, la scoperta del confronto con le proprie paure. Viaggiare a piedi da solo diventa per Herzog, lo strumento per scoprire che cosa significhi nel profondo essere un uomo, e ce lo racconta con una sintesi straordinaria. Dopo 5 giorni senza uscire dal bosco, scrive, vedo delle case abitate. Sono case normali, ma mi fanno l'effetto di baracche. Tutto molto provvisorio, come se ci abitassero degli zingari diventati pigri che non si aspettano più niente. Ci sono passeri su un mucchio di letame che fuma, l'acqua di disgelo cola in un tombino. Finora ho dormito nelle baracche, quelle per la legna o nei fienili vuoti, invece qua mi accolgono una nonna e una nipote. A forza di solitudine la mia faccia non mi pare più così familiare, la voce non mi viene più fuori. Non trovo la retta attitudine per parlare e me ne vergogno. Loro mi prendono subito a cuore, mi offrono un tè di menta, uova di burro e un bagno caldo. Poi, per il bagnato e per il lento scaldarsi del mio corpo, mando vapore. Per la mia forte evaporazione si appannano i vetri. La donna lavora a domicilio, fa reggiseni rosa, in cucina ce n'è una montagna. Vorrei sedermi un po' vicino a lei e stare a vedere, ma sono troppo stanco. Mi sveglio alle 3 di quella notte, mi alzo e vado sulla verandina. Fuori c'è vento e nubi basse. Ho un potente attacco d'orgoglio. Apro la porta e proseguo a piedi, nella pioggia. Dopo qualche ora che cammino nell'oscurità, mi viene paura, ma mi dico, la verità stessa va per i boschi. Solo chi cammina se ne rende conto. Non mi fermerò più, finché non sarò arrivato. Ecco, dopo 24 giorni di cammino, Herzog raggiunge la casa dell'amica a Parigi. E ha avuto ragione lui. La sua amica è ancora viva. Anzi, sopravviverà fino a 90 anni e oltre. Viaggiare è nel destino dell'uomo, lo spostamento da una parte all'altra, sia fisico che attraverso l'immaginazione, è la vita stessa. E l'uomo ancora oggi sente il bisogno di viaggiare a piedi, anche se è il più anacronistico dei gesti possibili. Non è chiaramente a Vinitaly, Bruno, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24. È all'aperto, c'è dell'erba, ci sono dei ragazzini che giocano con lui e lui è inginocchiato e loro sono alle sue spalle e gli toccano i capelli o sono tipo in fila per fare un qualche strano gioco. E dalla luce che c'è sembra decisamente una serata estiva. Pronto, Bruno? Ciao, ciao Matteo, sono io. Ciao, come stai? Dove sei? Benissimo, sono fuori dal negozio dove lavoro. Sei fuori dal negozio? Ci ricordi che lavoro fai? Lavoro nella grande distribuzione, negozi articoli sportivi. Quello che conosciamo tutti. Quello che conoscete tutti. Che inizia con la D e finisce con on. Ma ok, ma in quale parte dell'Italia ti trovi, Bruno? Sono vicino a Bergamo, a Curno. Ah, ok, quindi sei più o meno a metà strada tra qui e Milano. Che reparto, scusami, incuriosisce sempre molto la parte dedicata agli articoli sportivi. In che reparto sei? Mi occupo di biciclette, sì. Vabbè, ma quindi hai unito un pochettino, sì, diciamo, una parte della passione con il mestiere. Sì, qualcosa ho trovato, poi va bene così. Bruno, questo pellegrinaggio che tu hai fatto, che è di esattamente 10 anni fa, giusto? Perché era il 2004. Ormai, sì, il tempo è volato. Allora, ricapitoliamo. Tu arrivi a Londra in aereo, giusto? Con la bicicletta. Ok. Lì inforchi la bicicletta e vai in bici fino a Piacenza. Vero. Giusto, e poi da Piacenza molli la bicicletta in una sorta di biathlon strano, vai a piedi a Roma. Il giorno dopo ricomincio a piedi e vado a Roma, è così. Benissimo. Ora, la domanda che viene naturale è perché? Ma allora, mi sono laureato in lettere e in diritto geografico. Partendo da qua sembra subito chiarissimo. Ti sei laureato in lettere, quindi giustamente hai voglia di farti un indirizzo geografico. Indirizzo geografico. E okay. Un paio d'anni prima ero stato a Santiago in bicicletta, sempre partendo da Bergamo con un paio di amici. E mi era piaciuto. Poi, sentendo un po' quello che era il fermento della via Francigena, ho detto proviamo a capire se c'è qualcosa di concreto anche sulla via Francigena. E per capire se c'era qualcosa di concreto bisognava viverla concretamente, quindi ho detto un po' in bici, un po' a piedi, me l'ha suggerito quella che oggi è mia moglie, non avrei fatto in tempo a far tutto a piedi e in bici avrebbe perso un po' di senso, perché credo che il camminare, come si diceva prima, aiuta tantissimo a portare fuori quello che c'è dentro. Sì, guarda, tra l'altro ho voluto appunto raccontare la storia di Herzog, che è una storia esemplare per come addirittura il cammino possa diventare una forma di superstizione nei confronti della morte, addirittura lui lo racconta in questo modo. Bruno, quanti anni avevi 10 anni fa? 27. Quindi adesso ne hai 37. E quella che oggi è tua moglie, all'epoca cos'era? La tua fidanzata? Era la mia fidanzata, sì, un paio d'anni. E lei ha pensato bene di spronarti, ma non di venire con te, cioè non è passata nemmeno per la testa di venire. No, non sarebbe venuta, magari in futuro tornerà, però... Sì. Dove sei andato d'altro in questi 10 anni, Bruno? Anni dopo sono stato ad Atene con altri amici, sempre in bicicletta. Partendo da Bergamo, lo immagino, ma facendo che giro? Facendo il giro della Croazia, Montenegro, Albania, Grecia. Ok, quindi niente traghetto. No, niente Bruno, traghetto. Purtroppo è un po' disturbato la linea telefonica, ma adesso giuro che ti lascio andare, ti lascio tornare al lavoro. L'ultima domanda è: uno che è laureato in lettere con indirizzo geografico, sì, come ci finisce a Decathlon esattamente? Non sono pochi, sono tantissimi. Ci sono tanti umanisti a Decathlon? Lettere, sì. E di cosa si occupano? Di montagna? Ma di montagna, calcetto. Un po' di tutto, ma soprattutto sanno relazionarsi con le persone, credo che sia quello il valore aggiunto. E di conseguenza si giocano bene così. Devo ancora capire se questo è un mega spot per la Decathlon oppure no. Adesso no, ci ragiono no, su. Ci ragiono, no, non il tuo. Il fatto che ci siano così tanti laureati in materie umanistiche. Devo ancora capirlo. Ci faccio una riflessione e poi ti lascio andare. Bruno, scusami, l'ultima cosa. Sì. Tu adesso hai dei figli, immagino. C'hai una moglie. Sì, sei ho una un figlio di 3 anni e fra un mesetto c'è un secondo. Un altro in arrivo. Ah, benissimo. Ok, allora in bocca al lupo. Lo hai portato da qualche parte con te? O hai in mente di portarlo a farti un giro in bicicletta? Anche solo non sulla canna? Non vedo l'ora. È la voglia di camminare per ora sulle spalle e poi anche a piedi. Bruno, ti lascio tornare alle tue biciclette, ti ringrazio molto, in bocca al lupo. Grazie mille. E in bocca al lupo per il figlio. È un maschio o una femmina che arriva? È un maschio, un secondo. È un maschio, Pietro. Che si chiamerà, ancora Pietro. Non lo dite. Pietro, scusami? Pietro. L'idea Pietro. È Pietro. Sì, benissimo. Sì. Grazie ancora Bruno. Grazie a voi, ciao. Ciao, in bocca al lupo, ciao. Sono le 16:28 secondo l'orologio di Cioccia. C'è un sacco di gente, grazie, c'è uno che mi dice bravo. Tutti che alzano il pollice, grandissimi. Saluto tutti quelli che sono fuori. Un sacco di gente che saluto, gente che si fa selfie a caso invece davanti ai produttori, quelli più arcigni. Mi stanno più simpatici. Voi siete stati da questi qua che producono vino? Lo chiedo a voi fuori. Ah ok, infatti c'è uno che mi fa segno sulla fronte. Vuol dire che è fino a qua. A questo proposito al 349-238-6666 mi scrivono: sono al Vinitaly e sono completamente ubriaco, grande Matteo, siete voi il mio vino, vi ascolto sempre. E poi invece però domandavamo di viaggi lunghi effettuati per bere del vino. Paolo da Vicenza mi scrive, qui la pronuncia ragazzi, vi chiedo scusa, Boretice, Repubblica Ceca, uno chardonnay spaziale, qualcuno che conosca la... nessuno che conosce la dizione esatta, in Vespa da Udine a Erez della frontiera e ritorno nel 1987, oltre 6500 km in 2 settimane per portare a un collega di mio padre una bottiglia di Cardenal Mendoza, una meraviglia, Gianni e Claudio da Udine. E poi ancora e chiudo, una ragazza studentessa di lingue delle quali ero innamorato era nella zona del Bordeaux per uno stage. Già qua c'è una scusa enorme tra Bordeaux e donne. Presi la mia Renault 5 e mi feci 1500 km filati per poterla rivedere. A distanza di più di 20 anni posso dire di aver apprezzato molto il suo sorriso, ma di più il vino della zona. Ed è con questo che chiudiamo, ringraziando tutti quelli a Milano, Margherita Ina, Pietro Corleoni e se buonanotte, ne ho fatto uno solo da due. Era una crasi tra Pietro La Corte e Paolino Corleoni, Laura Vanossi che se ne torna finalmente a casa e anche Davide Cioccia. Ringrazio tutti quelli fuori che salutano e ringraziano. Ringrazio anche Lotta Carbone che ha aspettato Laura Vanossi per tornare a Milano. Grazie soprattutto a Bruno, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Luca, abito a Villa, nella conca dell'Alpago, in provincia di Belluno, e la storia di domani è la mia. Parla di mia moglie, si chiama Yolanda, che viene dalla lontana Croazia nel 91, nel 92. Questa è la mia storia e io sono qui.